Gigi, col sorriso di chi sta per affondare. Gigi, di chi macina sogni fino alla fine. Gigi, oh Gigi, Gigi, corri forte da piegarti il naso al vento. Gigi, ogni nota una preghiera, mai un lamento. Gigi, oh Gigi, non so perché, ma dentro te trovo qualcosa che mi fa bene al cuore. Sarà, sarà la tua onestà, quella di un tempo, ma non ce n'è mai un secondo. Oh Gigi, il sorriso incorniciato fra due parentesi, col sorriso rubi il permesso di dire no. Oh Charlotte, non so perché, ma senza te manca qualcosa, non sarà mica il sale, sarà, sarà quel po' di champagne, un colpo di tacco che nel fragore sfuma. Riparare sotto al tuo naso, riparami dal gusto uniformato, da schiere di salmone chiuse nei bocchetti, non ce la faccio più, non fa per me. Fammi riparare sotto al tuo naso, cercare altra bellezza sembra un reato, rischiare di non piacere ai più, per carità e per Gesù. Abbi pietà, almeno tu, per carità, e anche per Gesù, per mani tu, per il ragù e per il blu, dipinto di blu. Oh Gigi.